La questione della cosiddetta tassa sui ricchi, no? Questa ipotesi di mettere una tassa del 3% su chi guadagna 150.000 euro per trovare risorse per gli esodati. Lei che ne pensa di questa idea? Ma questo è stato, come gli ascoltatori sanno, una decisione della commissione parlamentare, della commissione lavoro che si occupa dell'argomento. Vedremo quello che succede in Parlamento. Credo che noi manterremo la nostra posizione contraria rispetto ad una procedura come quella prevista dal parere della Commissione Lavoro della Camera. Noi già abbiamo una tassa del 3% sui redditi superiori ai 300.000 euro e questa credo che dia un gettito di 500.000 euro, quindi dovrebbe essere un po' di più. Il problema non è questo, il problema è che noi abbiamo già una serie di... 500 milioni di euro forse. 500 milioni di euro, certo. Sì. Abbiamo già un contributo di solidarietà per i redditi alti e le pensioni alte che sono pari al 5% per la parte eccedente dei 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente di 150.000 euro. Quindi alla fine di contributi di solidarietà si può morire, in un certo senso, consentitemi la battuta. Noi pensiamo che il problema degli esodati, che è un problema drammatico e va risolto, lo possiamo risolvere con strumenti meno traumatici per quanto riguarda il prelievo fiscale. C'è sempre una proposta appunto dell'onorevole Cazzola, che è quella di costituire un fondo che viene alimentato dagli stanziamenti già realizzati per gli oltre 100.000 esodati che sono stati regolarizzati in qualche modo, e che è un fondo che attualmente dovrebbe essere intorno ai 5 miliardi. L'ho già messo a bilancio perché sono le decisioni già prese per risolvere. Questo fondo probabilmente si dimostra anche in qualche modo eccedente. La nostra idea quindi è di mantenere questo fondo, di alimentarlo anno per anno, per far sì di affrontare ogni anno la coorte degli esodati, dalle garanzie che è giusto dare nei confronti di quei cittadini che non per colpa loro si sono trovati in una situazione paradossale.